tutti buonanotte. Cosa c'è? Offrenini! Sorrens, fra poco, no, ancia di cinese, e si vede tutto di te, ragazzo, e qui si vede ora, mi campanisco, mi campanzi, e sono i tempi, e sono se mai vede giù, intende, per te ti l'auguri le offese degli ubriachi e capisca che ti voglia provare e voglia musicare. Buonasera, amici. Gira la riga, pazzia, tene l'ore qua dentro, all'agenzia starebbe molto meglio. Nina mi del Torena. questa sera ora mi risallaccio. L'avventuriera mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia, Ashby non vi fidate. Vendette di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Prefine papagallo, siamo lì. Scusa, senti, ci scuserà il piccolo. E poi senti, quanti cosa mi sono sbaccito? Che cosa sono? Al mio paese, che barattola. Povera Kitty! Bene, molto dopo ciò, ci sono cicce, non cicce tristi. Ciò che c'è, perché ti vuole, superaggio. E anche nonna se n'è andata. Straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi maschi? C'è quello che gli ho detto, ma la purga si deve il whisky schietto. In vento, gli aggiusteremo i ricci. Venenato che ride dell'amore, son messo in cammino. A tratto sol dal fascino dell'ora, e questo in sole non m'ha ingannato, giocare il vostro nome. Thank you.

Thank you. che vi guardo mi